things that you do. And when I ask you to the nights, you say you gotta be cruel to be kind in the right measure. Cruel to be kind, it's the very design. But cruel to be kind means that I love you. But you still mystify, and I wanna know why. I'll pick myself up off the ground to have you knock me back down again and again. And when I ask you to explain, you say you gotta be cruel to be kind in the right measure. Cruel to be kind, that's a very good sign. And cruel to be kind means that I love you. A 20 minuti alle ore 12 con il sound di Nick Love andiamo ad un'altra segnalazione, un record battuto. Siamo però nella giornata sì del 6 maggio ma del lontano 1977, quando i Led Zeppelin cancellarono un loro stesso record che detenevano, ovvero sia quello dell'affluenza ad un concerto. Ripeto, nel 77 quello era il record, cioè il record di presenza di pubblico al Silver Dome di Pontiac nel Michigan. Paganti furono 76.229. Ora, nel 2008, sono ampiamente superati e battuti questi record. Però nel 77 era un, innanzitutto penso, un bel incasso e poi un bel vedere 76.000 e oltre presenze. Circa 20.000 in più del record che loro stessi detenevano, effettuato a Tampa Bay, Florida, 4 anni prima. Bravi Page, bravi Plant, bravi tutti quindi.

FM. In this world, if you read the papers, don't you know everybody's fighting on with each other. You got no one you can count on, baby, not even your own brother. So someone comes along, he gonna give you some love and affection. Taking a gamble on a little song. Abbiamo ascoltato i Mother Station, che sono praticamente una, a livello femminile, un po' il clone di Janis Joplin, però è arrivata anche l'originale e, signori, scusate, ma l'originale è sicuramente inarrivabile. Get it while you can, Janis Joplin. Claudia, non sto parlando di te con l'originale, stavo parlando di Janis Joplin. Comunque tra poco ti lascerò il microfono. Io voglio andare in onda con te. Con me, sì, come i primi tempi. Come i vecchi tempi. Guarda, la 24 io, ore di... Io ho iniziato in questa radio con te e voglio finire con te. Dire iniziato è stato, cioè iniziato da sola, ma però non sei riuscita a spiccicare una parola. E allora ho detto, vabbè, dai, vieni con me, vediamo cosa succede. È stato un provino. Un po' di aneddoti li racconterò in quelle 24 grazie, ore. Grazie. Vai, poi li raccontate su di me. No, ma... Ce ne sono, eh. Sì. No, ma tu sei così serio, sei un professionista, non sbagli mai. Non c'è nulla da raccontare no, su guarda, di te. Posso. Ah, sei di una sera di Montecatini. Non ti sei mai ubriacato? Di Montecatini. La notte a Montecatini, stanza singola, cosa è successo? Cosa è successo? E dai, quella sì, te la tieni. Che, no, che Gravelli ha fatto. No, no, lo dico. Gravelli ha fatto il figo, ha preso l'unica stanza singola, e è corso via con le chiavi, così ha detto: ti è. Prego i miei colleghi. Gli altri erano doppia, non è che certo. Esatto. Siccome tu lo so che non venivi con me perché è russo, ho detto vabbè, prendo la singola. Vabbè. L'unica stanza sotto la quale il mattino dopo alle 8 ho iniziato la banda, se l'è beccata Gravelli. È passata la banda, ma proprio la banda del paese. Noi siamo andati a dormire alle 6 del mattino, alle 8 è passata la banda. Me la son voluta, me la son cercata. E lui arriva alla reception, prende le chiavi, scappa, non saluta, non dice nemmeno buonanotte. Non è andata proprio così, però. Beh, dai, più o meno. Molto meno. Call you on the telephone, baby. I give you a ring. But each time it's out, I get the same old thing. Always no huggy muggies until I get a wedding ring. My honey, my baby, don't put my love upon no shelf. She said, don't give me no lines and keep your hands to yourself. And keep your hands to yourself. And keep your hands to yourself. Giorgia Satellites, dedico questo pezzo a Edo Rossi, so che è anche una delle sue band, non tra le super preferite, però gli piace, visto che l'avevo in scaletta. E questa sera nel programma di proprio di Edo ci sarà un collegamento con la Scozia, potrebbe essere, o con l'Inghilterra, adesso non so dove siano quest'oggi. Sono quasi in partenza per un tour in Sud America. È un gruppo storico, più di 30 anni di carriera, francamente una band che mai abbiamo ospitato. Li raggiungeremo telefonicamente, sto parlando dei Nazareth. Si collegherà proprio con uno dei membri fondatori della band, il loro bassista, e quindi nell'occasione di questo nostro ultimo mese stiamo veramente con dobbiamo ringraziare le varie etichette discografiche, effettuando diverse interviste con tanti gruppi che abbiamo seguito, amato e vi abbiamo proposto nel corso dei nostri 18 anni, con formazioni straniere, quelle che riusciamo naturalmente a contattare. E Nazareth in effetti mai in 18 anni li abbiamo avuti, quindi questo è un cameo in più per noi, va bene? Allora, il prossimo pezzo sarà anche l'ultimo. Saluto e ringrazio Man on the Moon, auguro anche lui buona giornata, vi lascio con Claudia, ci ritroveremo questa sera 20:21 con lo spazio di Arden Devi. Voglio ricordare allora la nottata che si sta piano piano avvicinando. Il prossimo venerdì 16 maggio, allo scoccare della mezzanotte, inizierà Arden Devi Nightmare. Marco Gravelli e Max De Rio vi condurranno mano per mano nel mondo dell'hard rock e dell'heavy metal del passato, con tante piccole chicche. E visto che siamo in tema, vi lascio con questa canzone, 747 Strangers in the Night, Saxon. A domani, ciao!